La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in diretta alle 16.30, primi 30 secondi qui dal sud di Milano, grazie per l'ascolto. L'indirizzo della trasmissione, la versione di Oscar, @radio24.it. E a dire la verità, oggi la puntata nasce da alcune mail che sono arrivate a commento. Ve lo dico subito, così anticipiamo il tema e vedete se volete intervenire all'800240024 3492386666 per gli sms. Alcune mail stamattina a commento della proposta lanciata ieri dal presidente dell'INPS Tito Boeri e che oggi già è illustrata sui giornali, proposta di cui però parleremo approfonditamente con ospiti, ve lo dico già da adesso, domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva insieme a Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Parleremo della proposta Boeri, se siete d'accordo o meno, dopo averla rispiegata con voci pro e voci contro, e parleremo domani anche di una domanda secca: voi siete favorevoli o contrari a continuare a dare con l'8 per mille del tutto favorevole alla Chiesa, compreso l'inoptato di chi non sceglie nella dichiarazione dei redditi più di 1 miliardo di euro l'anno, quando apprendiamo quello che apprendiamo dalla finanza Vaticana? Ecco, di questi due temi parliamo domani. Però alcuni di voi hanno mandato una mail, delle mail che mi hanno giustamente fatto pensare al tema di questa trasmissione, in cui alcuni dicevano: sì, però qui si continua a parlare solo di interventi sulle pensioni per reperire, come vedremo meglio domani, risorse per anticipare il pensionamento di chi è più anziano, anzi anche per dare un sostegno sociale, un vero e proprio reddito di sostegno a chi ha più di 55 anni. Ma qui, insomma, perché il dibattito politico va solo in questa direzione quando c'è un enorme problema che riguarda noi più giovani? Scrivevano alcuni di voi che non riusciamo a mettere su famiglia, non abbiamo un minimo di reddito per farlo, entriamo nel mercato del lavoro tardissimo con discontinuità contributiva e soprattutto figuriamoci l'idea di fare dei figli. Ecco, allora, ho pensato oggi, saltando in groppa a una pagina intera di un giornale oggi dedicata esattamente a questo tema, al tema che collega la demografia alla produttività, per chiedervi una domanda, chiedervi semplicemente, telefonateci all'800240024 e diteci: secondo voi che cosa potrebbe davvero sbloccare dal vostro punto di vista l'idea di una propensione per chi è più giovane a una demografia meno piangente rispetto a quella che ci indicano le statistiche italiane? Io ricordo a tutti: 2,1 per donna in termini di figli, e il tasso di sostituzione, cioè di equilibrio intergenerazionale, per evitare che i morti prevalgano sui vivi e quindi un paese invecchi sempre di più con corti più ristrette per il lavoro. In Italia siamo a 1,4 per le residenti italiane, diventa la media nazionale 1,7 grazie alle immigrate, restiamo molto lontani dal tasso di sostituzione. Secondo voi che cosa potrebbe davvero, dal punto di vista di un cambiamento della politica di governo, aiutare questa che è a tutti gli effetti un'emergenza nazionale, vedremo, non solo in Italia ma è diffusa nel mondo? Cosa vorreste? Misure di incentivo al lavoro giovanile, un sostegno al reddito dei più giovani che non ce l'hanno invece che agli over 55, come dice Boeri, più deduzioni e detrazioni per i figli rispetto a quelle italiane, che non risolvono il problema e sono le meno generose rispetto a tutti i paesi avanzati? Ditecelo, telefonateci, ma intanto cerchiamo di capire com'è dal punto di vista italiano, ma anche delle grandi macro aree del mondo, questo problema della demografia. Io ricordo a tutti che noi abbiamo alle nostre spalle dei decenni in cui su questo tema si sono presi degli sfrondoni pazzeschi, proprio pazzeschi, e alcuni non se ne sono ancora liberati. Per esempio il professor Giovanni Sartori, che io rispetto, il grande politologo oltre 90enne italiano, di solito 1 o 2 volte l'anno riscrive da decenni il suo editoriale contro l'eccesso di popolazione nel mondo: non ce la faremo mai a reggere la popolazione del mondo, ci vogliono misure contro le nascite, sterilizzazioni, cose di questo genere qua. E questa tesi, che è una tesi antica, perché fin dalla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, Malthus identificò dei limiti allo sviluppo fisico, e quindi bisognava stare attenti a non fare troppi figli, perché la tesi era: i poveri fanno troppi figli, poi quando si acquista reddito si fanno altri figli, tutti troppi figli rispetto alle risorse della terra. La storia ha dimostrato che questa critica era infondata: noi riusciamo, grazie all'aumento della produttività, a sfamare molte più centinaia di milioni di persone, anzi miliardi, di quanto non si immaginasse fino a pochi decenni fa. Però questa tesi fu rilanciata potentissima ufficialmente nel 1968 e fu una cosa che ha galoppato fino agli anni 80 con grande forza nel dibattito mondiale, perché Paul Ehrlich, un grande biologo americano, scrisse un libro, The Population Bomb, dicendo: ma in capo a 20 anni non avremo così tanti abitanti sul pianeta Terra che non sapremo cosa fare, guerre, stragi, morti, eccetera eccetera. La risposta poi, per chi è liberale, per chi la pensa come me, venne nel 1981 con un libro molto più straordinario, anche se meno popolare, che fu scritto da uno psicologo, Julian Simon, che scrisse questo libro The Ultimate Resource, che poi aggiornò 10 anni dopo, che da questo punto di vista io vi invito a leggerli entrambi, perché fu la risposta che dimostrava: guardate che gli aumenti di produttività che stiamo realizzando nel mondo smentiscono totalmente l'apocalisse di chi teme troppi figli, anzi al contrario, ne abbiamo troppo pochi nel mondo avanzato. Allora, chi ha scritto questa pagina oggi per parlarne meglio e quindi chi ho invitato? Sul foglio di oggi, quotidiano diretto da Claudio Cerasa, c'è un paginone fitto di testo intitolato appunto Demographinomics: che legame c'è tra l'andamento della natalità e l'andamento dell'economia? Dalla fine del figlio unico in Cina all'eccezione americana, così le culle svelano i punti di forza e di debolezza di ciascun paese. Uno dei due coautori è qui con noi e io lo ringrazio di essere collegato a telefono, Marco Valerio Loprete. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Oscar, e agli ascoltatori. Allora, cominciamo dall'Italia sinteticamente, anche se probabilmente questi dati sono più conosciuti. Come stiamo messi? Ma come siamo messi? Abbiamo una popolazione pressoché stagnante, se non fosse ovviamente per l'immigrazione, ma comunque rimane stagnante a 59,8 milioni e soprattutto, come si chiedevano i tuoi ascoltatori, un'età media di 44,4 anni, che forse spiega questa fissazione del dibattito politico dell'INPS a tutti i livelli. Parliamo solo di pensionati dal 2011, cioè da quando abbiamo fatto una riforma finalmente drastica delle pensioni, siamo rimasti a parlare solo di pensionati e pensionandi, e questo ci dovrebbe dire molto anche della potenza di questa corte, diciamo, di elettori, oltre che di persone. Ah sì, quindi si spiega anche forse perché Renzi dice no a Boeri, tanto per essere chiari, però perché poi gli elettori ci sono appunto e sono spostati sempre più verso l'alto della piramide dell'età. I 65 anni sono il 22% della popolazione, siamo praticamente il terzo paese con questo gruppo così forte dopo Giappone e Germania, quindi il 22% della popolazione ha più di 65 anni. E ci sono sulle nascite invece abbiamo dei dati piuttosto catastrofici, ti ricordavi te il tasso di fecondità, ma c'è anche appunto 8,2 nascite ogni 1000 abitanti, anche questo è il dato praticamente più basso d'Europa. Peggio di noi fa solo la Germania e insieme a noi ci sono il Portogallo e la Grecia, insomma. Questi dati che ovviamente pongono problemi anche economici, perché sostenibilità e soprattutto non possiamo immaginare che poi lo miglioriamo solo con massicci aumenti di 400-500 mila immigrati l'anno, perché come è evidente il dibattito italiano non va in quella direzione. No, c'è in realtà appunto in Europa c'è un dibattito che va in questa direzione, che è quello tedesco sicuramente. Sì. Ai massimi livelli istituzionali il riferimento alla demografia è ossessivo. La Bundesbank, mentre da noi diciamolo, la demografia, come tutto l'equilibrio intergenerazionale, non è assunto come un criterio di riferimento del dibattito pubblico. Uno dei più gravi limiti, secondo me, del confronto politico-economico italiano, cioè pare che non freghi niente a nessuno questa questione, né di buona stampa né a livello però istituzionale. Cioè la Bundesbank, adesso che lo Spiegel poi lo scriva o meno, in tutti i suoi report, esatto, in tutti gli interventi pubblici di Weidmann fa dei riferimenti a questo. Ovviamente la Germania è in una situazione ancora potenzialmente più difficile sul punto di vista demografico, però è un dato di fatto che questo c'è nel dibattito pubblico, è discusso e lì si ipotizza un po', alcune parti politiche, intellettuali ipotizzano quello che dicevi te, cioè una sorta di ingresso, approvvigionamento di massa anche attraverso l'immigrazione. È inciso, oggi sui giornali tedeschi c'è la notizia che compresi i numeri di ottobre che sono stati resi noti ieri dal ministro dell'interno, siamo dall'inizio dell'anno in Germania a 871.000 immigrati registrati in Germania e come sanno i nostri ascoltatori, nell'ultimo mese la situazione politica e le critiche alla Merkel sono esplose su questo tema, quindi anche la Germania mostra dei limiti evidenti di tenuta su questa faccia, perché sono 870.000, quindi significa che si supera il milione entro l'anno. Io sono personalmente scettico sull'idea che solo questa chiave possa funzionare. Anch'io. Ricordo che in Italia, in fondo, gli immigrati sono aumentati negli anni 90. All'inizio degli anni 90 erano 500.000, oggi sono 6 milioni su una popolazione di quasi 60, eppure noi abbiamo ancora il problema demografico, esatto, il problema delle pensioni. Perché? In parte perché questi, i nuovi arrivati tendono su alcune grandi, grandi cose, grandi atteggiamenti a conformarsi poi a quello che è il nostro stile di vita, e quindi anche il tasso di fecondità degli immigrati poi si cala molto rapidamente. Dall'altra perché comunque 800.000 persone pongono un problema politico, sociale e di gestione anche solo infrastrutturale in Germania, che è un paese, come sappiamo, quasi per antonomasia, organizzato, ricco, satollo. Figurarsi in Italia, insomma, lo abbiamo visto con 170.000 sbarchi. Questo cosa vuol dire? Che quindi quella ricetta come diciamo come leva unica per risolvere questo problema io non la vedo. E andiamo a vedere ancora gli altri paesi che voi avete esaminato dal punto di vista della bilancia demografica. Vabbè, il Giappone è il classico caso di scuola di un paese da questo punto di vista messo malissimo. Secondo me uno interessante sono anche gli Stati Uniti. Il Giappone è quello messo malissimo, appunto, è un paese che contemporaneamente cosa ha fatto? Ha subito, diciamo, attraversa un autunno demografico ormai da anni è conclamato, e ha anche chiuso le frontiere. Questo è un altro dettaglio, ha sostanzialmente chiuso le frontiere, ci sono pochi lavoratori temporanei, l'immigrazione è ancora vista come una sorta di tabù, e quindi lì l'inverno demografico è considerato uno dei fattori anche della crisi economica e della stagnazione che ormai dura da ormai anche da più di un decennio. Lì stanno a un tasso di fecondità addirittura 1,4, quindi è proprio una cosa. 1,4, che è esattamente come dicevi te, quello degli italiani senza gli immigrati, sì, praticamente, quindi è lo stesso. E il numero appunto di nati è molto basso, anche quello. Secondo me un caso interessante e borderline è anche quello degli Stati Uniti, perché invece lì c'è una relativa vitalità demografica, tasso di fecondità 1,9, quindi più alto di quello italiano. Poi ovviamente c'è anche una politica dell'immigrazione più lasca, ma allo stesso tempo più selettiva per forza di cose, e perché il welfare non è allo stesso tipo di quello europeo. E però perfino negli Stati Uniti ci si interroga se il fatto che stiano andando in pensione i famosi ricchi baby boomers, soprattutto produttivi baby boomers, il fatto che stiano andando in pensione non sia uno di quei fattori che fanno parlare anche in America, dove il tasso di disoccupazione, notizia di oggi pomeriggio, praticamente arriverà al 5%, cioè esattamente meno della metà di quello dell'Eurozona. Però anche lì si parla di stagnazione secolare. La stagnazione secolare è una crescita sostanzialmente molto lenta rispetto agli standard precedenti. Chi tra i sostenitori di questa tesi, che comunque non è ovviamente verità, però c'è chi dice che anche il fattore demografico, cioè il progressivo pensionamento, Larry Summers, che l'ha lanciata questa tesi e che ne ha un po' la primogenitura, ne tenta di appropriarsi un po' anche Paul Krugman, ma fa del fattore demografico una delle componenti secondo me meno discutibili dell'abbassamento della produttività. Ricordo a tutti che ovviamente la popolazione è uno dei fattori base della produttività nel medio-lungo periodo, e più discutibile la tesi di Larry Summers sul fatto che siamo in presenza di un abbattimento di lungo periodo dei tassi di innovazione tecnologica, ma sulla demografia lo insiste sempre, in effetti. Sì, tra l'altro anche su questo economisti anche liberali sottolineano come il tasso di partecipazione alla forza di lavoro negli Stati Uniti sia comunque molto più basso della crisi, di 4-5 punti percentuali, parliamo del 62% oggi invece del 67% pre-Lehman Brothers. Ma questo non è dovuto tanto al crollo di Lehman Brothers, perché le banche si sono, come sappiamo, poi rafforzate, diciamo riavvivate, ma il problema è che appunto stanno andando in pensione molti dei baby boomers, anche se più tardi dei nostri, e però questi lavoratori non sono allo stesso ritmo rimpiazzati da nuovi lavoratori, dalle nuove leve, nonostante gli Stati Uniti siano un caso, ripeto, di eccezione, perché hanno tutto sommato questo fronte, diciamo, di prospettiva non esaltante, ma rispetto a tutti gli altri paesi industrializzati sono comunque quelli che hanno il tasso di fecondità più alto e comunque una politica dell'immigrazione più vitale. Da questo punto di vista ci sarebbe da interrogarsi sul fatto che, per esempio, la Francia non è un paese a bassa spesa pubblica e a bassa pressione fiscale, virgola, ha anzi sono altissime entrambe, però la Francia è, diciamo, in questi ultimi 20 anni resta nel panorama dei paesi avanzati e soprattutto in Europa, se facciamo il raffronto con il Portogallo, l'Italia, la Germania, i dati che abbiamo fin qui ricordato grazie a Marco Valerio Loprete, però in Francia invece il tasso di fecondità è rimasto significativamente più elevato e vicinissimo, anzi in alcuni anni superando il tasso di sostituzione, cioè il 2,1% per donna. La tua opinione, Marco Valerio, su questo fatto qual è? Ma allora, una tesi che è molto affermata, non dico che sia la mia, però una tesi è sicuramente quella di un'attenzione anche fiscale, perché è vero quello che dicevi tu, c'è una pressione fiscale fortissima, ma c'è anche un'attenzione fiscale alle famiglie, esatto, e in particolare alla natalità in generale. Il quoziente familiare su cui noi ci spremiamo le meningi da anni, lì è in altre forme, magari di quelle teorizzate qui, ma è comunque una realtà, cioè un'attenzione fiscale alla natalità c'è effettivamente. Io, a rendere le cose ancora più complicate, ma per questo però dico anche subito, per avverto di non avere una soluzione, penso che ci siano anche fattori culturali, non solo fiscali, a volte imponderabili, e che magari nel giro di 20 o 30 anni forse una differenza tra un paese e l'altro potrebbe anche essere poco significativa. No, certo, le tendenze sono quelle di lungo periodo, però è vero che tra paesi che hanno mantenuto una soggettività giuridica nei confronti del fisco non esclusivamente incardinata sull'individuo, noi abbiamo fatto questa scelta, anzi l'ha fatta la Corte Costituzionale negli anni 70, questa scelta in Italia, non l'ha fatto la politica, ha deciso che è solo il contribuente individuale quello che è, su cui si incardina il rapporto tributario con lo Stato, non più la famiglia, mentre altri paesi come la Francia, come gli Stati Uniti, hanno mantenuto aperto in formule diverse tra quoziente familiare, scelta per ogni famiglia tra cumulo familiare oppure tassazione marginale individuale. In ciascuno di questi paesi dove è rimasta una soggettività nel rapporto tributario incardinata a scelta magari, ma anche sulla famiglia non individuale, lì però il tasso di fecondità è più elevato che da noi, mentre noi abbiamo fatto, siamo un paese collettivista in tutto, ma nel rapporto tributario un paese iperindividualista, e quindi la famiglia ha perso un mucchio di colpi, come potete immaginare. Allora abbiamo un minuto di pausa per l'informazione stradale, poi andiamo alle vostre telefonate che commentiamo poi con Marco Valerio. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, siamo in diretta 16:49 primi su questo problema della demografia e dell'impossibilità per centinaia di migliaia di giovani di mettere su famiglia, tanto più pensare a fare figli nel nostro paese, ma con un dibattito pubblico tutto solo invece concentrato sulle pensioni. Abbiamo visto un po' di dati, è un problema trasversale del mondo avanzato e anche della Cina, visto che hanno dovuto finalmente cambiare idea sul fatto che lo Stato imponeva il numero di figli, non più uno, due, ma è sempre lo Stato che decide. E però ci sono moltissime vostre opinioni. Allora, leggo al volo un po' di sms per prima delle telefonate, perché c'è ovviamente chi pone il problema degli asili nido, asili pubblici, vera priorità, anche questa la politica non ci sente, per liberare i genitori e non obbligarli a un salasso, io con due bimbi spendo 700 euro al mese tra asilo, buoni pasti eccetera, i bimbi quindi sono una cosa per ricchi, moltissimi sono su questo filone di pensiero. Altri dicono riservare ai giovani interventi con il recupero sulle pensioni tributive più alte, per esempio Gigi dice: mi chiedo come mai non debba valere l'equivalenza, rubare soldi con pensioni non versate è uguale a evadere le tasse. Questo, figurati, se ti prende un pensionato retributivo ti fa nuovo, caro Gigi. Io in realtà sono abbastanza d'accordo con te sopra una certa soglia. La testimonianza di un ascoltatore 39enne: non abbiamo figli e ne vorremmo, saremmo una coppia però ancora più povera, quindi come facciamo? È un dibattito frequente e fisso con la mia compagna, ci dice il nostro ascoltatore. Sentiamo Franco da Ravenna, come la pensa? Pronto? Eccoci, Franco. Sono cattolica, ma va bene lo stesso. Secondo me bisogna che rivalutiamo in maniera chiara il significato di famiglia. Se la Corte Costituzionale ha fatto la scelta individuale, secondo me ha sbagliato e quindi si potrebbe anche correggere, allora giriamo l'ostacolo e facciamo dei contributi, facciamo degli assegni familiari, cioè mettiamo le famiglie in condizioni di poter fare qualcosa. Per la natalità, per siccome qui i tempi sono stretti, quindi non voglio farvi perdere molto tempo, una cosa che non è fondamentale, consentiamo alle mamme, dopo che hanno fatto un primo figlio, di andare a lavorare part time. C'è l'80% delle mamme, il 100% di quelle che si licenziano, che non si licenzierebbero se potessero lavorare soltanto a orario ridotto. Oggi lavorare a orario ridotto non costa più, perché più che lavorare singoli, la contribuzione è la stessa, però lei provi a chiedere alle donne che ha intorno o agli ascoltatori, se noi consentiamo alle mamme di poter lavorare part time, noi facciamo un'opera meritoria per le mamme, per la famiglia, per la natività, per un sacco di gente. Grazie Franco, io aggiungo che in un paese che ha centinaia di deduzioni e detrazioni per questa o quella lobby, comprese industriali, quindi non è che parlo solo di però ne abbiamo centinaia, noi viviamo come una vittoria all'estensione ai maschi del congedo parentale. Quando io per esempio ho proposto tempo fa, non abbiamo una deduzione o detrazione, seconda se si interviene sull'imposta o sull'imponibile, per il congedo parentale. Io non solo va consentito, va incentivato. Questo è il punto. Non è possibile che noi abbiamo centinaia di sottrazioni di miliardi, centinaia di tax expenditures, come si chiamano, cioè di deduzioni o detrazioni ad hoc per questo o quello, e non ne abbiamo una per questa faccenda qua, che a me sembra una priorità. Abbiamo tentato di spiegarvelo. Mauro da Bergamo, come la pensi? Mauro. Fondamentale, sì. Che non mi è chiaro. Sì, sì. Sentite? Sì, ci dica il punto che non gli è chiaro. Non mi è chiaro se stiamo parlando di un problema contestuale dell'Italia, che non abbiamo più soldi per pagare le pensioni, e in quel caso non ho la soluzione, ma anche in questo non credo che la soluzione sia quello di aumentare a dismisura la popolazione. Ma se vediamo la cosa da un punto di vista globale, la Terra è ancora un sistema chiuso e lo rimarrà ancora per parecchio, perché non siamo in grado di portare risorse da altri pianeti. Quindi il problema è semplicemente temporale, a prescindere dalle opinioni. Non abbiamo risorse infinite. Mauro, no, io ho capito il problema che poni, è lo stesso di Malthus. Fino a questo momento, io mi limito a dire fino a questo momento, io non sono depositario di verità. Fino a questo momento l'obiezione ai limiti fisici, io non sto parlando del consumo di risorse per forza finite, ma anche su quello, dai picchi petroliferi in voi in poi, io sto parlando della produzione di risorse alimentari per popolazioni crescenti nel nostro paese. Fino a questo momento, nei due secoli che abbiamo alle spalle, gli aumenti di produttività, resa per ettaro, per colture, eccetera eccetera, sono stati tali da consentire uno minor sfruttamento meno intenso di minori superfici di aree di terra per sfamare miliardi di persone in più. Cioè la produttività è andata molto più avanti di quanto noi non credessimo. Magari c'è una crisi tecnologica bellica per cui regrediamo, ma fino a questo momento però è così, quindi non ce lo dimentichiamo. L'obiezione dei limiti è un'obiezione che potrebbe valere per un numero di miliardi di persone enormemente, incredibilmente più elevato rispetto al fatto che sta rallentando di molto la crescita, hanno sballato tutti le previsioni di crescita demografica, per questo che sta succedendo in tutto il mondo, perché man mano che si diffonde un reddito medio più elevato il tasso di fecondità si abbatte e per il mondo avanzato è fuori dalla possibilità di sostenersi oramai nel medio periodo, con corti sempre più vecchie di popolazioni. Ma Ugo da Roma come la pensa? Allora, pronto, tolgo l'auricolare un attimo. Tanto. E guardate, io ho 42 anni, vivo a Roma, ho tre figli e li ho in macchina, che mi sono fermato perché e li sono andati a prendere a scuola. Allora, il problema è duplice, a mio modesto avviso. In primo luogo, il benessere che stiamo vivendo adesso, io lavoro in una società parabancaria, è tale che la maggior parte delle persone della mia età e anche quelle un pochino più giovani, perché ho cominciato 10 anni fa a lavorare lì, non vuole fare i figli perché non vuole rinunciare la troppo lunga giovinezza, diciamo così. Sì, non vuole e questo è un fattore. Il secondo, e non vuole rinunciare al benessere. Questo è il fattore culturale. Poi il secondo invece è un problema che riguarda invece effettivamente il denaro che manca, e il terzo? Manca effettivamente una e il terzo politica sociale. Devo chiedere, stringere il terzo? Il terzo invece riguarda il fatto che non abbiamo più la mentalità. È il primo, quindi sono due i fattori: mentalità, cultura e denaro. Allora, grazie a tutti, grazie a Marco Valerio Lopretto, appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva, mi raccomando.